Roma Trastevere, 26 ottobre 1966. Care Eleuterio, la casa dalla quale mi strappasti signorina felice, oggi mi raccoglie signora affranta. Sono qui sconcertata e triste, come quella volta che ascoltai per 15 minuti il cantante Vasso Ovale. L'orologio a pendolo scandisce il tempo. Il pendolo. Io penso che il pendolo è come un uomo politicamente incerto. Oscilla fra destra e sinistra, mentre le alte sfere continuano a girare per lo stesso verso. E penso anche che sei un insofferente. Se accendi una lite violenta solo per un mio attimo di nervosismo. Sempre tua. Roma Parioli, 27 ottobre 66. Cara sempre mia, la casa che ora ti accoglie signora affranta e dalla quale ti strappai, signorina e felice, è la stessa casa nella quale tua madre mi strappò l'irreparabile sì. La odio, no, non la casa, cara. Hai fatto benissimo a tornare da tua madre, anche perché fin quando tu vai da lei, lei non ha ragione di venire da noi. Forse sono un insofferente, ma ti ricordo che il tuo attimo di nervosismo ha provocato, oltre la rottura dei vetri in salotto, l'arrivo in casa della portinaia e quello dei vigili del fuoco. Ciao. Ho scritto. Se Angelo Lombardi avesse nel suo zoo la madre di mia moglie, smetterebbe di essere amico degli animali. Eleuterio. Roma Trastevere, 28 ottobre 1966. Caro Eleuterio, gattucolo, scusa ma te lo meriti. Per gattucolo intendo uno di quei gatti tra i ruderi. Quei gatti che hanno sempre in bocca un pezzetto di polmone, dall'altra parte del quale è appesa una vecchietta. Sono preoccupata per mia madre che da stamani non fa che ascoltare uno scecchio. Ne scandisce il tempo battendo con violenza il piede destro in terra. Forse non sta troppo bene. No, sta benissimo invece. Ho scoperto che lo shake è solo una scusa. Sotto il suo piede destro c'è una tua fotografia formato tessera. Ah, e questo mi chiarisce anche perché di tanto in tanto la cara vegliarda mormora il sostantivo verme. Guardo fuori. Il sole rosso e tondo sta tramontando. E io penso che il sole al tramonto non è che il monoscopio della sera. Se durante il mio attimo di nervosismo la vetrata non ha resistito all'urto e la savonarola è precipitata per la strada a 2 centimetri dalla portinaia, non è colpa mia. Sempre tua. Roma Parioli, 29 ottobre 1966. Cara sempre mia, la solitudine comincia ad opprimermi. Da quando non circoli più in questa casa con i tuoi bigodini e le tue creme di bellezza, io non ho più motivi di divertimento e non guardo più con la dovuta ammirazione la sorella maggiore della portinaia in abiti da lavoro mormorando fra me e me un sincero ciao Bardot. Torna. Torna, anche perché è successa una cosa molto strana. I pesci rossi nel vaso di cristallo sono diventati marrone. Un marrone cioccolato fondente. Abbiamo litigato, tu ed io. Ma perché? Ciao. Ho scritto. I pesci marrone sono tornati rossi. La portinaia ha cambiato l'acqua nel vaso di cristallo. Eleuterio. Roma Parioli, 29 ottobre 1966. Caro Eleuterio, micione, sono tornata e ti sto aspettando. Tra poco rientrerai. Ho ingannato l'attesa fino a questo momento guardando in televisione i 3 moschettieri di Dumas. Hanno sempre un gran fascino questi personaggi. Peccato che alla fine l'annunciatrice mi abbia delusa informandomi che era terminata un'esibizione dei Rocks. Guardo fuori. è un mélange di stelle e insegne luminose. I tetti sono pieni di antenne televisive. E io penso che l'antenna della televisione è soltanto un periscopio mediante il quale quel sommergibilista che si chiama teleutente può spiare i nemici di Via Teulada. E penso anche all'inesistente motivo della nostra lite dell'altro giorno. Non vai un po' a letto, Eleuterio? No, starò una mezz'ora qui in poltrona. Anzi, tra mezz'ora, per favore, portami un caffè. Faccio un sonnellino. Buon riposo. Sì. Io no, il sonnellino non lo faccio. Quando faccio il sonnellino, poi mi sveglio infreddolita. Non so perché, ma mi capita sempre, anche se mi copro. A te non succede, vero Eleuterio? No. Beato te. Tra mezz'ora hai detto il caffè? Ah, adesso che mi ricordo, hai pagato il bollo della macchina? Sì, l'ho pagato 15 giorni fa. No, siccome mi avevi detto di ricordartelo. 15 giorni fa? Sì, va bene, ma me ne sono ricordata soltanto adesso e te l'ho ricordato. Va bene, grazie. Dormi? Dormi? Credevo dormissi. Meno male che non dormivi. Ti volevo rammentare che fra 15 giorni è il compleanno di tuo fratello. E tra un mese potrebbe anche essere il trigesimo della tua dipartita. Mezz'ora. Ho soltanto mezz'ora. Una mezz'ora di sonno che ho cominciato a pregustare mentre sbucciavo la pera. Una mezz'ora di sonno che ho vissuto in segreto mentre fumavo la solita sigaretta. Ho visto sipari rosa calarmi tutto intorno, la luce del giorno diventare blu notte per me. E un grande orologio ho visto spuntare davanti ai miei occhi chiusi. Un orologio immenso lì a sussurrarmi: mezz'ora, tic-tac, mezz'ora, tic-tac, solo mezz'ora, tic-tac. E tu mi svegli per ricordarmi che fra 15 giorni è la festa di mio fratello. Sei un'oca! Eleuterio, non ti offendere, ma quando mia madre dice che sei un tiranno, egoista e presuntuoso, ha perfettamente ragione. Ma allora lo fai apposta. Lo sai che tua madre mi blocca la digestione. E tu niente. Almeno quando la nomini, di prima, con rispetto parlando, chiaro. Portami il caffè. No, non te lo porto perché non ho del curaro per correggerlo. E mia madre dice sempre che dovrei avere del curaro per te, a portata di mano. Le prossime cose che direte tu e tua madre le direte tramite il tavolino a tre zampe. Dammi il caffè. No, e non ti avvicinare, mostro! Il caffè o succede tutto, eh? È inutile che ti barichi dietro la savonarola. Voglio il caffè o i fiori che riceverai tra poco saranno gli ultimi e confezionati a cuscino. Aiuto, aiuto, aiuto, mia madre, aiuto! Ricordo perfettamente il perché del nostro bisticcio. Ma quando tornerai, farò finta di niente. Mangeremo in silenzio, tu e io, poi. Mi metto una mezz'ora in poltrona. Poi devo lavorare. Tra mezz'ora, per favore, portami un caffè. Sì, certo. Buon riposo. Eleuterio? Hai pagato il bollo della macchina?